Come ti trovi a Tione? Bene. E cosa pensi dei degli adulti? Niente. Come niente? E poi cos'è? Secondo te gli adulti cosa pensano di noi giovani? Che siamo stupidi.